quello con la birra, non ce l'hai una, riempi un bicchiere di birra, se poi non metto il fuoco dentro, guardate che si pulisca bene e così funziona meglio. Aspetta un po', vedo un po', vedi un po' se ha migliorato. Adesso sei di nuovo 9 più 20, però questo sbalzo di segnale non riesco a capire come mai. Adesso sei di nuovo 9 più 20, io ho bacchi, poc'anzi di nuovo. Alterni da 9 a 9 e 20 e da 9 e 20 a 9. Adesso ho inserito un po'. Spostato un po' il mic gain, ho dato un po' di mic gain in più. Allora è questione di carrier sicuramente, perché cosa c'è? Il mic gain c'è anche il carrier nello stesso potenziometro. Adesso ho inserito il processore, va bene? Sì, vabbè, il processore, ma la radio andava bene com'era. Sì, ma quello che ti ho chiesto è un unico potenziometro che c'è il carrier, e cioè la potenza, e anche il volume, e cioè il mic gain. Evidentemente è sporco, non l'ha pulito. Un po' quel problema della radio mia, diciamo. Forse c'era così sporco giù. Temi il cacciavite questa radio. Da quando ce l'ho, non ho visto mai il cacciavite, lo temi, ha paura. No, ma forse ha bisogno di una bella lubrificatina. Sarà così. Una bella lubrificatina al potenziometro. Probabilmente è così. Vai Franco, California, nonché di Sassari. Riprendo io. Sì, ecco papà che batti, è stato un passaggio, no, che sta arrivando da me. Carico, tutto qua. Che radio sta usando? La C80 c'è. 140, fra, buonasera, ben ascoltato. 140. Ah, io adesso sto usando il 180. Arrivi bene, arrivi limpido e chiaro. Ma che sia un po' di casotto. Bene, bene, dottore, come mi ascolti tu, sia Emmo? 9.30 è radio buonissima, radio 5 perfetta. Il prefetto non c'è, c'è il Presidente della Repubblica. Infatti così. Andiamo bene così, andiamo, vero Giulio? Sì, noi andiamo bene sempre, sempre torno. Noi non ci lamentiamo mai. Sì, 9 più 20, adesso stai andando bene, Bacchì, la radio va bene, anda bene alla grande, però ripeto, se fa quel difetto probabilmente perché c'è il doppio potenziometro che vuole un pochino, non sfoderato, ma bensì lubrificato, insomma, deve pulire un po' di rossetto dentro, mi fa truccarlo, fagli un po' di macchiaggio e vedrai che funziona bene. Sì, ma bisogna aprirlo giù, e questa fa una del cacciavite. È quello, il problema è quello che ci sono, che nelle radio ci sono i tappi, ci sono le viti, e bisogna svitare le viti per arrivare al potenziometro. Quello già è vero, e vabbè, comunque, anche loro ne hanno diritto, È come le donne, la radio è come le donne, se non gli fai il macchiaggio sono sempre brutte, invece se gli fai il macchiaggio sono belle, come tutte le donne, quando si truccano, quando si vestono bene, eccetera, eccetera, vero fra? Allora, io ti faccio hai visto Tore, Franco è d'accordo con me. Ma dice radio bisogna dei montani, prima lo frontalino, poi dei montani, la su frontalino, e fino a un bel cosa da dei montani. Guarda, io ti dico, ripasso la cosa che c'è con te, se la tua comunità di che ha fatto, cosa è? Non è complicato? No, è complicato che devi rimontarne lo frontalino, ma no, pulire tutto canto. Questo era una volta, lo potrò dire, il frontalino, la volta, lo carcaccio è il concetto del titolo. Poi io l'ho aperto, l'ho pulito la volta, l'ho pulito la volta, poi l'ho rifugio. Ma chi sta ancora, peggio di chi ci va in campo? La magista l'hai fatto un lavaggio generale all'interno e tutto va bene così. Vero? Allora, l'ho pulito la botola perché c'era la botola, l'ho fatto tanto per una linea. Quando ve l'ho pulita, adesso va bene, è partita. Giano Clero, ma cosa vogliamo pretendere dalle radio che hanno 25-30 anni di vita? Vanno bene, dai, è chiaro che un pochino di manutenzione ci vuole, no? Ma è normale. Va bene, dai, va bene, allora io facendo la radiolina, io ma poco me ne caggio in terra. Sai che me ne caggio il BMR, l'altra volta, e non funziona più il display. Allora me ne caggio in terra la radiolina, ma sono di tratto, sono quelle cose, è la vecchiaia, è quella che si deve fare. Me ne rendo conto, la vecchiaia che torre. Lasciamo appigli da, fammi così, lasciamo appigli che è meglio. Andate. Signor Bacchi, se la riprenda. Io la riprendo io, ma io gli do una spruzzata dall'esterno, a vedere un po' se ci arriva con l'odore. E un po' di spray disossidante dovresti dargli da, eccoci, da, dai forellini. Ma c'ho le cose, per pulire i contatti, lo spray per pulire i contatti ho. Quello lì, disossidante. Ti dà la parapera di quello, però di quello che si asciuga, Ma non lo so se si asciugano, no, boh, non lo so. Devo prendere la Fusaro. Questo è R11. Già è come quello che ho io. Capito. E così gli leviamo la faccia. Quello che ho io si chiama DSS 110, che c'è scritto pulitore contatti elettronici disossidante secco rapida asciugatura. L'ho comprato da cosa? 400 mg la bomboletta, l'ho comprato da Bricoman, agitare bene prima dell'uso, e l'ho pagato 5 euro, proprio adatto per i contatti elettronici. Infatti c'è anche la fotografia nella bomboletta di un circuito elettronico, si vedono un po' di componenti insomma nella fotografia. No, questo c'è scritto solo R11 contatti trainer pulisci contatti elettroniche, guarda, in piccolino, gli occhiali non ce l'ho e non lo dico. Sì, ma è così, ma è uguale, dai, è uguale, sì, perché alle volte l'ho usato anch'io, quindi non è che sono diverso dall'altro, alle volte ho usato anche il CRC e ha funzionato ugualmente, però diciamo che per i contatti elettronici c'è appunto il prodotto suo particolare. Diciamo che alle volte anche il CRC fa il suo lavoro, magari la buona di asciutta perché tu lo struzzi, se funziona e poi lo devi asciugare, ma che se no rimane tutto imbevuto e impreziato di roba oliosa. Va bene, avanti Franco. Adesso è giusto, dove c'è? Ho qua problemi con il microfono, no? Con me, non mi sono spinto il microfono. Quando lo funziona uno, lo prendo, lo butto dalla finestra e uso l'altro. Anch'io, io faccio così lo stesso. Quando non funziona uno, vado da Marcello, domani me ne compro un altro, me ne compro. Magari anche di seconda mano, però Marcello ne ha tanti. Dottore. Se si bossi, se no rimaneni così, rimaneni e vabbè. Cosa, mi ha giocato pure a 4, mi ha giocato pure, diceva la chi. Adesso me ne sono rimasti altre 8, adesso uno a uno, faccio fuori anche gli altri. Tanto cosa mi ne posso di tutti gli altri, diceva la chi, per parlare sempre sul canale 23 oppure sul canale 10. E qualche volta su qualche altro canale magari di propagazione. Non mi rimborso niente, una alla volta li faccio fuori. 4 li ho già smerciati, non è che ne ho reclamato molto, sia ben chiaro, ma non mi interessa, mi davano fastidio, sempre toccava a sempre i poteri, puta, mamma mia, che adesso ho qualche radio di quelle antiche da baffurami, perché meglio 6, io ho 6 radio di quelle antiche, parlo di radio valvolare. Allora, mi attaccavo, si muove tutta la carretta della Mondezza. Che due tra l'altro sono tutte radio funzionanti, però sono dentro le scatole perché non è che li posso tenere tutti quanti in esposizione, no? È così, sta cosa. Si abbassano tutte le stereo e tutte le radio che vado in giro. Ma queste le avevo tutte quante le revisionate, ma non da vanno, già da anni. E ogni tanto ne trovo qualcuno, l'accendo, in modo che non si rovinino i condensatori dell'alimentazione, ma che se no la buca non accende come sta a ronzare, perché o addirittura spaccarsi i condensatori, quello dell'alimentazione, perché essendo 220, ecco, una sua cosa mi va, inteso dai, io ho il telefonino che mi arrivano i risultati delle due partite, eccetera. Quello che avete sentito era un gol che hanno appena segnato. E stavo dicendo, dunque, perché i condensatori, se tu non li fai caldare, parlo dei condensatori a 220 volt, se non li fai caldare col tempo si possono spaccare appena che li metti in funzione, anche se so come si devono ripristinare. Va bene, avanti fra. Ma cosa c'è di radio valvolare? Intanto ho anche un barattino valvolare che è il 25 cost, cioè il Constant 25B, anche quello esteticamente non è un granché, però diciamo che è un vecchio vintage, dai. Che dice vale 250 euro, perché l'ho visto anche al computer, e l'ho messo dentro uno scatolone, c'è il trasformatore, perché quelli funzionano a 110 volt, funzionano, e c'è il trasformatore che attacchi tu alla corrente e poi viene alimentato a 110, perché è una radio americana, no? E poi ho altre radio tipo Magneti Marelli, Sirudine, tutte queste radio così, roba valvolare, tutte valvole, anche 8 valvole, 7-8 valvole, con stereo, ne ho 3 addirittura che hanno lo stereo sopra, cioè con le radioni, no? Che ti tiri su il coperchio e c'è lo stereo dentro, cioè il giradischi, ok? Quelle sono radio che hanno mediani, no? Eh beh, se sono radio tipo radio Marelli, Sinudine, queste radio così, no? Radio Lesa, queste radio così sono, e allora sono tutti valvolari, ma sono tutti funzionanti, tutti funzionanti, perché io le avevo quando avevo voglia, che ero più giovane, li mettevo a posto, li mettevo, li prendevo, me li davano anche, me le regalavano, qualcuno l'ho regalata, e ce l'ha ancora, mia cognata ad esempio ce l'ha ancora, poi qualche amico penso che ce l'abbia ancora. Perché io li procuravo, no? Avete considerato che ho lavorato in un ambiente dove, quando facevo l'elettricista allora, ero a contatto e mezzo a queste cose. Poi c'era la buon'anima di Emanuele, anche che lui me ne ha regalato tanti, me ne ha regalato Emanuele Ponzio Pilato, che ormai è morto 10 anni fa. E dunque me li dava, diceva te, sistemateli e poi vedi tu cosa devi fare. E io mi mettevo a posto, prima di tutto il mobiletto, me lo restauravo, no? In falegnameria, e poi mi restauravo anche tutta la parte elettrica e elettronica. Qualche volta ho sostituito qualche valvola perché non si trovava, tipo ad esempio la 50L, non ho dovuto sostituire con una 6L6, e più qualche radiatore l'ho dovuto sostituire con dei diodi. Tutto questo perché la 50L era un bottiglione, era un bottiglione di valvola, un grande, però non si trovava, non ero riuscito a trovarlo, e allora l'ho sostituita con una valvola a 6 volt anziché a 50 volt, perché 50L cosa significa? Che quella valvola andava alimentata con 50 volt, mentre quella che ho messo io le stesse caratteristiche, però che funzionava a 6 volt. Allora per fare quel lavoro lì ho dovuto fare una modifica ricarica all'autotrasformatore ho dovuto fare, soprattutto nella tensione a 115, sto staccando la tensione a 115 e mandando la massa, insomma tutto il lavoro compreso di allora, e magari oggi non bisogna più buono, prima le facevo queste cose perché io nel laboratorio ci sono stato un po' di tempo, quando uscivo dal lavoro, dal cantiere, la sera pure rimanevo in laboratorio insieme a Antonio Scarpa e altri radiotecnici fino alle 8, e dunque anch'io lavoravo e mi facevano fare delle cosettine, però, capito? Ecco, certo, io ho lavorato qualcosa con Giovanni Secchi, ma negli anni fa ti parlo. Giovanni Secchi è un grandissimo amico, cioè, ci conosciamo da bambini, proprio da bambini, anche perché abitavamo mia madre con sua madre abitavamo vicini di casa, dunque lì nel Monte Rosello Alto, dalle parti proprio dove sei tu, perché mia madre abitava lì, in Piazza Nuvolento, ti puoi immaginare, praticamente a 200 metri da casa tua più o meno, e Giovanni abitava lì stesso in quella zona, per cui ci conosciamo molto, abbiamo giocato insieme e poi ci incontriamo sempre, siamo rimasti buoni, ma buoni amici veramente con Giovanni, e anche Giovanni era un radiotecnico bravissimo lo stesso. Avanti Tore, scusa il passaggio lunghissimo che ho fatto. Vai, quelle radio lì sono ormai d'epoca, queste compagnie fanno il rivore a Rubio Lettro. Vabbè, facciamo entrare anche il signor Bacchi. Avanti signor Bacchi. Ma tu vuoi, però un rumore fa pure lì sì, perché ho delle radio che valgono 3.000 euro, essendo radio d'epoca Autore, io non li spenderei mai per comprare una radio così per 3.000 euro, però io ho delle radio che vedendo o il listino prezzi delle radio antiche, delle radio d'epoca, che sono valutate anche 3.000 euro. Tanto mai dite, no, è pazzesco spendere 3.000 euro per una radio di quel periodo, però c'è dell'amatore che ci sa, che magari è sordo e le spende anche. Vai Franco. Ecco, certo, vabbè, c'è tutto l'amatore che lo paga a te. Anche perché anche una quadra da più radio del genere, sono televisori dal volare, non ce ne più. Adesso televisori cosa una cazzata, quindi l'altro se non fa fino a ripararli. Perché te ne chiedono 100, io dopo faccio per 40, capito? Sì, beh certo, sì, anche qualche televisore avevo procurato allora e facevo delle modifiche, mi ricordo ne avevo fatto uno di modifica, avevo cambiato il diodo al contrario di come lo montava e prendevo tutte le radio, prendevo le stazioni francesi, poi qualche consiglio che non sapevo, chiedevo al radiotecnico, mi diceva come dovevo fare e io poi lo mettevo in pratica i consigli che mi, perché io facevo elettricista, non ero radiotecnico, ma siccome nella ditta dove lavoravo facevo impianti elettrici, che ero io l'addetto agli impianti elettrici, e poi però c'era anche il reparto radiotecnico che vendeva televisori e un certo Musa, poi c'era Antonio Scarpa, c'era, e poi sono stato anche con Tonino Usai, già l'hai conosciuto lo stesso, fra quello che una volta aveva il negozio in Via Italia, anche lui era elettricista, anche lui, e lavoravamo insieme anche con quello, facevamo gli impianti insieme eccetera. E poi la sera, ripeto, siccome il cantiere chiudeva presto, e allora si rientrava in negozio, il negozio chiudeva alle 8:10, 8:15, quando noi eravamo in mezzo, e io ero lì di fianco al radiotecnico e vedevo cosa faceva, e tante volte mi faceva fare dei lavori, dice Giulio questo è bel lavoro per te, per dire no, piccole cose naturalmente, perché di elettronica io non è che sono un grande esperto, però come mi fa di natura ce l'ho sempre, lo fa, e me la ricordo ancora oggi, da 60 anni, vai fra. Non mi sto più interessando a riparare i televisori, a fare come questo. Qualcuno già me l'ho riparato, di quelli grandi, ne ho riparato uno, grande, il mese scorso, Francia me l'hanno dato la via, alla verità, l'ho installato e funziona benissimo, non ho 57 pubblici. Ok, c'è stato un break che faccio venire subito avanti, ma certo, ma è così, poi naturalmente col passare degli anni incomincia a perdere un po' tutto, intanto perché non è più frequentato quel settore lì, primo, secondo perché le apparecchiature elettroniche hanno avuto un'evoluzione non indifferente, terzo perché sei diventato più anziano, più vecchio e incominci la vista ad essere calata. Insomma sono una mille complicazioni che tutti messi insieme poi fanno sì che ti fanno disinteressare da quello che magari era prima una passione, era giovane, tutto lì. Avanti Brecche. Buonasera a tutti, doppio ru. Ciao, doppio ru, ciao, giatto. Ciao Gianni, e beh, come va? Mi sto riposando adesso a fare la spesa. Sto tornando adesso a casa, adesso sdraiati a 5 minuti perché sono stanco morto. Ho pulito prima tutta la casa, adesso ho fatto la spesa e adesso mi rilasso un po'. Hai fatto bene già, hai fatto bene, guarda, quello che si deve fare bisogna fare. No, io l'ho fatta stamattina da Conad su di via, come si chiama, di via Budapest, che via è quella zona lì, insomma è l'altra, perché sono andato a prendere la pensione, non io, anzi ho accompagnato mia moglie a prendere la pensione, lei, perché era due mesi senza ritirarla. Oggi era la sua lettera e l'ho accompagnata e visto che ero già fuori ho fatto un allungo con la macchina e sono andato alla Conad su e mi sono speso 150 euro di spesa per tutta la settimana, sono tranquillo, siamo abbastanza forniti. Bene, bene, c'è Tone, c'è Franco, poi chi c'era? Boh, non mi ricordo. Avanti Tone. Ah, Marchisio, fai l'appello tu, Tone. Ok. Aspetta, facciamo entrare Marchisio. Avanti, signor Marchisio. Ciao, Gianni. Avanti, signor Marchisio, ci sei. Ci sono, ciao, Gianni. Ci sono e chiudo. E lo vado tutto giù. Bene signori, vi ringrazio delle quattro chiacchiere, a domani, ciao Franco, ciao Giulio, Tore, anche quelli splatter che arrivano, belli belli, salutiamo anche quelli. Buonasera a tutti, a domani se coincidete ce la chiacchieriamo ancora. Marchisio, ascolta fino a lì, noi vai in QRT, riprendi Tore. Ok, ciao Marchi, ci sentiamo, alle prossime, ok. Avanti Gianni. Ehi allora, ciao Battiso, mi hai sentito anche a te e buon continuo serata, dai. Ciao anche a te Tore, noi ci siamo salutati, mi hai sentito anche a te, dai. Bene, io vado avanti Tore, fai girare tu che sai chi c'è, non so se ci siamo vedute oltre me Franco e quello. No, c'è solo Giulio e Franco. Ok, vabbè, facciamo entrare a Franco. Avanti, Fra. Ciao Gianni, buonasera, buon tutto, ben entrato. E io volevo salutare che devo fare un po' di progressi perché devo sistemare alcune cosette qua in campagna. Se coincide, allora. Ciao Giulio, ciao Tore, ciao Battiso. Non carica, buon tutto e ce l'avete tolto alle prossime. Ciao, ciao. Ciao Fra, con che antenna sei uscito da campagna? Con un bidone di antenna, già, sempre la stessa, la piccola. Dopo la macchina da cicco la volevo piazzare ma c'era troppo vento e non mi sono attivato a smontare niente. E vabbè, sta arrivando un fermetto ci dato sul nome, va bene, dai, buona continuazione di serata, ci sentiamo, avanti. Ok, ciao Franco, grazie per la chiacchierata, dai, alle prossime, ci sentiamo. Fra un po' anch'io devo chiudere, sono già le 8 meno 10 circa, meno più o meno, perciò meno 12, meno 13, e siamo lì. E così è, e allora già, ancora vento c'è, io stasera non sono uscito, tu uscito sì, ancora vento c'è. E ancora un po' ma già calato, qui si confronta come era prima, stamattina, a pugna vento, pugna folata che faceva. Io ieri notte mi sono preso la curiosità, ho già, di salire in mansarda, ho aperto la persiana del terrazzo, sono uscito fuori per vedere quanto si piegava l'antenna. Si piega non eccessivamente, però si piega con quel ventaccio che c'era forte, ma regge che è una meraviglia. Va bene che io l'avevo riportata dove ci sono tutti i collegamenti fra elemento e elemento, l'avevo rinforzata con un pezzo di tubo da elettricista, di quelli di tubi rigidi, una quarantina di centimetri più o meno, 35-40 centimetri, per poter rinforzare il collegamento dove ci sono le fascette, in poche parole. E ho visto che regge, che è una meraviglia. Va bene che reggeva già la canna da pesca di prima, che come materiale non c'è paragone con la Game Master originale. La Game Master originale è un vero materiale, chi lui era un materiale adridesi, come si dice qui a Sassari. Ok, e dunque va bene così. Avanti Tore. Sì, infatti, meglio rinforzare e tutto quanto. E vabbè. Oh, signor Gianni. Eia, io l'ho rinforzata, ma con diciamo con l'acqua vulcanizzata, le ho dato 3 o 4 passate senza guardare streccoli. Bello tirato, bello fatto, di modo che poi ci pulisca, ma anche quello già vecchio. Sì, già, va benissimo, ma io non ne avevo l'altro vocalizzante, io invece ci ho messo il tubo dei elettricisti, no? Siccome ne ho alcune stecche avanzate di varie sezioni di tubo, e ho utilizzato quello che andava bene, la sezione che andava bene, e poi l'ho attratto da una parte e dall'altra di questo pezzo di tubo, e poi l'ho attratto tutto quanto, e l'ho attratto tutto con nastro rosso, in modo che sia bene evidente da fuori così, perché il tubo è grigio, per cui quel pezzo lì l'ho attratto tutto quanto con nastro rosso, e di questo modo un rotolo di nastro isolante non si perderà mai lì, bisogna che il vento arrivi una bufera veramente forte, però no. Ciao già, un altro uomo hanno fatto. Stavo dicendo già, bisogna che arrivi veramente una bufera per spezzarla, perché non è possibile che si possa spezzare per come l'ho rinforzata. Va bene, avanti Tore. Lo saluto, ok, ciao Franco, alle prossime, che non mi pare che non ha già salutato. Ci sei ancora? No, dove va così, devo fare un bel campagna. Vabbè, io ho già salutato, va. Sì, bisogna fare così, bisogna fare, e rinforzarle bene. Va bene ragazzi, io vi saluto, che mi sono ciamendi. Ci sentiamo alle prossime, ci sentiamo. Ok, ciao Gianni e ciao Giulio. Alle prossime. Ciao, ciao Tore, ci sentiamo. Buona continuazione e buon carico quando lo fai. Avanti. Ok, ciao Tore, a domani, se coincide, dai, ci sentiamo e facciamo altre 2 chiacchiere. Grazie per la chiacchieratina e buona notte e buona cena anche. Ciao, a risentirci. Avanti già. Ecco, dove è stata aggiustata l'antenna che c'è, dove c'era spezzata, tutta la parte. Ecco. A me stai dicendo già. Ecco. Sì, avanti, Antonio, sei tu? Sì, buonasera, Gianni. Buonasera a te Gianni, buonasera anche a te Giulio. Buonasera a tutti. Ciao Anthony, stai sparendo di radio, sei sparito di radio. Lo so, me ne sono accorto, ho visto che non stavo uscendo di segnale. Sì, a che radio stai usando? Sto usando quello là, quello piccolino sto usando. È meglio l'altro, il 550, quello lì è meglio. No, adesso ci ha acceso questo qua, ci ha acceso e via. Ma di segnare è meglio chissio però. Ma non lo so. Cappa. Ok, dai, adesso vi devo lasciare un attimino. Sono entrato così a salutare perché era acceso l'apparecchio. E io ero nel piano di giù. Ah, e anche tu, va bene, dai. A fare il carico. già stai andando? Sì, ho già caricato io. No, adesso sto andando un attimino a fare una cosettina nel piano di giù. Poi riprendo dopo, ok dai, ricontinuate. Non so se ci trovi, altro perché sto facendo la portare il cane giù e Giulio se ne andrà a mangiare. Per cui ci tratteniamo altri 10 minuti e poi andiamo. Kappa, dai, io devo andare a fare questa cosa veloce. Devo andare a fare. Poi già. Ok. Ok, a tu. Vai tranquillo, avanti giù. Ok, ciao a tu. Tanto oggi mi stai arrivando meglio di segnale, oggi sei Santiago 9, a differenza degli altri giorni che arrivi Santiago 6 e mezzo 7, oggi sei Santiago 9, vabbè, ho capito come è fatto, non c'è problema, grazie per essere entrato a salutare. Sì, anch'io adesso chiudo già, dai, sono già alle 8 meno 5 quasi, per cui un altro passaggio, due passaggi e dopo che chiudo, dai, ti prendi. Ti stavo dicendo, quello lì è quell'antenna famosa che c'era tutta a Cosa, a San Gottile, no? Esatto, io l'avevo comprata da Sandro, l'avevo comprata. Però quell'antenna l'aveva data, a quanto ne so io, l'aveva data a Luca Flipper per aggiustarla. Ecco il telefono, questi mi stanno già chiamando. Aspetta un attimino, vediamo chi è. Che Luigi, mio genero mi sta chiamando per scendere giù a cenare. Sì, Luca Flipper l'aveva aggiustata, no? Io l'ho presa, l'ho portata qua. Avevo già nel frattempo avevo l'auto costruita, è venuto mio nipote, questo fu quello famoso di Carbonia, l'ha vista e mi ha detto ma dai lì, e io ne macchina del sale e prendi, te la vai, e se l'ha portata via. Dopo due anni, una cosa del genere, due anni e mezzo all'incirca, poi mi è venuto di nuovo l'idea, fatto quasi me la faccio risentire, perché sapevo che non l'avevo mai piazzata lui. Allora gli ho telefonato e gli ho chiesto, ma risentisci con l'antenna? Sì, dice, intanto io non me l'ho piazzata, ce l'ho l'antenna. Vabbè, e allora quando vieni portamela, va bene. E tu cosa mi regala? Ma non ti preoccupare, già lo sai, qualche regalo già te lo faccio sempre. E vabbè, sto scherzando così, e appunto, scherzando, ma intanto me l'hai chiesto qualcosa, e l'ho ribadito, no? E così è stato, poi me l'ha riportata, quando me l'ha portata, poi l'ho preso io, ne ho tolto quella gomma, perché c'era una gomma, c'era, no? Con due fascette, perché poi penso che l'abbia aggiustata in qualche maniera, non lo so. E allora ci ho messo il tubo io, insomma è diventata più carina e tutto quanto, è rimasta proprio praticamente originale. Ed ecco che sta funzionando alla grande, ho già tutto lì. Io l'avevo comprato da Sandro, 100 euro l'avevo pagato. Già va bene. Con le antenne di Giulio, quello che funziona all'interno, non è l'esterno, quindi te la puoi sempre riparare, cioè non è che si rompe il filo interno, però è quello l'interno quello che funziona, la struttura esterna serve solo per tenerla in fila e basta. No, che io prima, quando me l'aveva data Sandro, io cosa ho fatto? Ho preso e ho ricavato subito le misure già, ho preso tutte le misure, perché allora era smontata, no? Del filo, e me le avevo scritte, e nel frattempo me la sono autocostruita, ed è per quello che avevo un'antenna performante, nonostante che era autocostruita, proprio perché avevo rispettato quelle stesse misure e danni. Ecco, infatti differenza tu non ne hai trovato nemmeno nel segnale, come io non ne ho trovato per te, capito? Per cui è quello, però l'originale è tutta un'altra cosa, come materiale di canna, perché quello là si sa, la canna della Decathlon era una cosa proprio, però nonostante tutto riserva ugualmente. Vabbè, dai, già, mi hanno telefonato per scendere a cenare, dai, ti devo lasciare e ci sentiamo eventualmente domani, ok? Ciao Gianni, ascolto fino a video, dopo chiudo, vai. Ciao Giulio, ci sentiamo, dai, buona continuazione, buona carica quando la fai. Adesso vado a caricare anch'io, poi porto giù il cane e finita la serata. Ciao, ci sentiamo. Ok, ciao.